Radio 24 Reportage. Quando l'anima è nel campo, di Cristina Carpinelli. La zappa al posto del Prozac, la mente liberata da un aratro che disegna righe precise sulla terra, le mani nella terra. Stiamo seduti su una panchina nell'aia di una cascina. Guardiamo attorno. Sentiamo il rumore degli animali, qualcuno che ride, una campana che lontana suona. Siamo all'interno di una fattoria sociale. Le fattorie sociali sono aziende agricole che affiancano alla propria attività principale, quella produttiva, uno o più progetti a sfondo sociale. Tiziana Biolghini è la coordinatrice del Forum delle Fattorie Sociali della provincia di Roma. Noi come provincia di Roma abbiamo istituito con una delibera di iniziativa consiliare, ed è l'unica provincia in Italia che l'ha fatto, abbiamo istituito il Forum delle Fattorie Sociali. Che significa costruire un sistema di rete fattivo, concreto, tra il mondo dell'agricoltura e il mondo sociosanitario e del sociale. E quindi ci siamo mossi attraverso dei territori, abbiamo preso da un punto di vista geografico le ASL come territori. A Roma in provincia abbiamo 8 ASL, dove abitano oltre 3 milioni di abitanti, quasi 4, e abbiamo messo insieme, partendo dalla ASL RMA, poi siamo andati alla DIC, Ostia, Fiumicino e 2 municipi di Roma, tutto quello che riguardava il mondo dell'agricoltura, della zootecnia, dei servizi alla persona, dei dipartimenti di salute mentale, disabili adulti, il terzo settore, quindi le cooperative sociali, le associazioni delle famiglie, e stiamo costruendo una serie di esperienze concrete che vanno dalla fattoria terapeutica, dove ci sono soprattutto ragazzi con disabilità molto gravi, poi abbiamo delle fattorie sociali che invece sono un mixer tipo Capodarco, tipo Consorzio Meglio Insieme, dove sono inseriti cittadini che appartengono alle cosiddette categorie svantaggiate, quindi possono essere ex detenuti, disabili con ritardi medi o lievi, ex tossicodipendenti, quindi cittadini che difficilmente possono essere reinseriti nel mercato del lavoro, che in un ambiente più naturale, più rispettoso dei tempi delle persone, e soprattutto per chi è stato oggetto sempre della cura di altri, diventare invece protagonista del processo di vita di altri esseri viventi come sono le piante e gli animali, è anche questo un grandissimo risultato che produce un grande benessere e aumenta l'autostima che spesso è stata minata da esperienze molto negative. Si lavora con chi vive situazioni di disagio, ci sono persone con disabilità fisiche, psichiche, ma ci sono anche ragazzi tossicodipendenti, ex detenuti, ci sono quelli che sembravano insomma persi e che con le mani nella terra si sono ritrovati. Non è sempre facile, ma quasi sempre funziona. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera. Ancora Tiziana Biolghini. Una serie di esperienze concrete che vanno dalla fattoria terapeutica, dove ci sono soprattutto ragazzi con disabilità molto gravi, tipo il Garibaldi, dove abbiamo oltre 50 ragazzi autistici, che erano quei bambini che un tempo sarebbero stati condannati ai manicomi, che sono molto ben inseriti nella scuola perché è un istituto tecnico agrario, ma oltre che essere inseriti nella scuola fanno molte attività in agricoltura sociale, dove stanno acquistando competenze e anche un minimo di autonomia. Per un bambino autistico sapere aspettare, riuscire a prendere un bicchiere d'acqua, servire a un tavolo un altro bambino è un successo eccezionale, è una cosa che le famiglie si commuovono. Zappa Lidoro, che è la Fattoria Verde, dove una trentina di ragazzi autistici con ritardi gravi, cognitivi e comportamentali seguono un processo legato alla vita delle galline, raccolgono le uova e con le uova fanno la pasta, i biscotti e altri prodotti che poi vengono inseriti nel mercato. E queste fattorie, che sono dei mixer, sono anche proiettate in un sistema di tipo produttivo. È uno stato sociale, quindi un processo di welfare non di tipo assistenziale, perché si tiene anche molto conto di quella che sarà la produzione, del sistema di vendita e della commercializzazione. Infatti stiamo lavorando anche per sostenere quei prodotti che nascono dall'agricoltura sociale e dall'artigianato etico, quindi dargli una riconoscibilità, perché hanno un doppio valore: sono buoni, sono genuini, sono biologici e soprattutto nascono dal lavoro che è un valore etico, terapeutico, di inclusione sociale. Stiamo lavorando quindi anche per la commercializzazione, quindi questo significa offrire servizi migliori ai cittadini, nello stesso tempo veri da un punto di vista dell'integrazione e dell'inclusione sociale, nello stesso tempo diminuire anche i costi per le amministrazioni pubbliche, perché stiamo lavorando in un'ottica di tipo produttivo. Come quieres ser mi amiga? Un censimento reale delle fattorie sociali in Italia non esiste. Nel 2003, quindi parecchio tempo fa, l'Istat ne contò 471. Si trattava di fattorie sociali di tipo B, cioè quelle che svolgono attività agricole per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In due anni, da quel censimento, dunque nel 2005, le fattorie sociali sono diventate 571. L'aumento è stato del 21%. Si tratta di un dato su cui riflettere, perché è in controtendenza rispetto ai dati che invece arrivano dall'agricoltura tradizionale. Ma come hanno vissuto i contadini della provincia romana l'esistenza di queste fattorie? Sentiamo Tiziana Biolghini. Dal mondo dell'agricoltura all'inizio c'è stato un po' di sospetto, perché anche se poi naturalmente il mondo dell'agricoltura, per la sua propria vocazione, è sempre stata vicino per i disabili, erano naturalmente inseriti nei campi, erano naturalmente utilizzati in senso positivo in alcune mansioni che servivano al ciclo, però era una visione nuova che si stava innescando. Adesso il mondo dell'agricoltura invece è fortemente motivato, perché ha capito che può uscire anche da una sofferenza in cui ha versato negli ultimi anni. Non dimentichiamoci che Roma è il comune agricolo più grande d'Europa. Noi abbiamo centinaia di migliaia di ettari abbandonati che sono solo oggetto di degrado sociale. Quindi oggi reinvestire attraverso progetti di inclusione sociale significa creare anche delle sentinelle per la vivibilità dei territori, significa che non produrre più abbandono e degrado, quindi si coniugano tanti interessi diversi e oggi c'è una comprensione dei vari mondi su questo. Dobbiamo avere strumenti e norme più forti, noi dovremo muoverci di più per fare in modo che dall'Europa vengano direttive forti alle regioni e al governo italiano, affinché non sia solo una scommessa di pochi, ma sia un terreno da battere in molti, perché si tiene conto degli interessi di tutti i cittadini. L'idea della terra lavorata da chi avrebbe altrimenti dovuto rimanere chiuso in un istituto è nata in Olanda. Qui il governo stesso ha disciplinato il settore con leggi adeguate e il Ministero dell'Agricoltura e quello delle politiche sociali ha creato un istituto dedicato che conduce anche ricerche, monitoraggi e sondaggi. In Olanda la diffusione delle fattorie sociali si è rivelata una soluzione buona, soprattutto per le piccole aziende che per sopravvivere erano costrette ad attività collaterali, cosa che ha favorito la diffusione delle social farms. Il fatto che in molte famiglie contadine c'è almeno una persona con esperienze pregresse nel settore infermieristico e nell'assistenza. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.